Allora, vi saluto tutti a nome del Forum per cambiare l'ordine delle cose, che insomma, da alcuni anni sta lavorando sul tema delle politiche migratorie per tentare di promuovere delle direzioni di sguardo e di azione al fine di cambiare, la direzione delle politiche migratorie. E, ecco, ho dimenticato il cellulare acceso, chiedo scusa. E lo spengo subito. E che nelle ultime settimane, dopo, diciamo, il blocco causato dal Covid, ha cercato di riprendere il filo delle discussioni, delle proposte emerse alla fine del forum di Roma dell'8-9 febbraio scorsi. Durante il quale erano intervenute circa 150 persone da diverse città d'Italia, tutte persone che, come, diciamo, come i membri del forum, fanno parte di realtà attive nella mediazione, nell'accoglienza, operatori legali e ovviamente anche migranti persone italiani di seconda generazione, tutte realtà singole e organizzate che si attivano in diversi territori da diversi anni per cercare di affrontare il tema delle migrazioni fuori dalle logiche dell'emergenza e dentro ad una logica di giustizia e dignità per tutti. In questi giorni abbiamo lanciato, appunto, seguendo un po' quelle che erano state le indicazioni emerse dal forum di febbraio, una campagna di informazione e di pressione politica che ha come motto, come logo e come motto la parola visto, articolata nelle due direzioni, cioè la necessità di vedere, di aver visto quali sono le conseguenze di errori nelle politiche migratorie sviluppate in questi ultimi anni, ma insomma anche in un lungo periodo, e dall'altra parte la parola visto come quello strumento che determina la distanza, la differenza e l'ingiustizia nella attribuzione del diritto di viaggiare e di viaggiare in maniera regolare per poter appunto, seguire una propria direzione di mobilità libera e soggettiva e nello stesso tempo per poter anche essere, diciamo, disponibili ad essere controllati e gestiti, ad esempio, in situazioni gravi come quelle che abbiamo vissuto in tutto il mondo in queste settimane, in questi mesi di emergenza sanitaria. L'assenza di queste vie regolari per una parte significativa della popolazione mondiale e in particolare non a caso per la parte che in realtà ha più bisogno di muoversi per ragioni economiche o umanitarie, l'assenza appunto di una politica di visti regolari per le persone provenienti da luoghi da cui è spesso necessario, più necessario muoversi, determina appunto la crescita negli ultimi anni dei viaggi irregolari. E la crescita dei viaggi irregolari determina, non a caso, la presenza di persone, quelle che sopravvivono e che riescono ad arrivare, quelle che non vengono fermate, diciamo, nelle maglie dei traffici o delle politiche securitarie. Chi riesce ad arrivare spesso si ritrova a non riuscire a maturare regolarità neanche nel territorio, neanche una volta sopravvissuto e arrivato. O addirittura si ritrova a maturare una regolarità temporanea, legata ad alcune procedure di richiesta, di asilo o di protezione, che, non, di rado, diventano poi, causa della, irregolarità, successiva, della loro residenza. Cioè la irregolarità nasce non soltanto per l'assenza di viaggi di vie di viaggio regolare, ma a volte nasce anche per la discriminazione e l'errore nella gestione delle politiche di accoglienza che producono ulteriori irregolarità. dentro a tutto questo marasma di irregolarità, ogni tanto i vari governi, spesso di centrodestra peraltro, ma in questo caso di, diciamo, più o meno centrosinistra, di improvvisato centrosinistra, di nuovo centrosinistra, attivano delle misure di regolarizzazione. Cioè si accorgono che la presenza di esseri umani privi di documenti regolari è un problema non solo per loro, ma anche per tutti gli altri. Nel caso di un'emergenza sanitaria questo problema diventa ancora più evidente. L'intreccio tra l'emergenza sanitaria e la supposta cosiddetta emergenza agricola per assenza di lavoratori nei campi dell'agricoltura, perché molti, appunto, cittadini, soprattutto in realtà europei dell'est Europa, non erano più presenti. Chiudete per favore il microfono quando non parlate. E Stefano, ad esempio, in questo caso, se non sbaglio, ha determinato, appunto, dicevo, un'emergenza lavorativa nei campi. L'intreccio tra l'emergenza sanitaria e l'emergenza lavorativa ha fatto nascere la necessità della regolarizzazione, o quantomeno, diciamo, ha creato un contesto, un humus idoneo a proporre una misura di regolarizzazione che non è la prima nella storia di questo paese, anzi ce ne sono state diverse, e che pare non essere neanche troppo diversa da quelle precedenti, se non secondo alcuni peggiore di quelle precedenti. In questi giorni, oltre appunto a sensibilizzare su tutto ciò attraverso la campagna Visto e alle testimonianze e ai racconti di esperienze dirette che trovate sul sito del forum e sulle pagine del forum, stiamo anche cercando di promuovere una riflessione e una pressione rispetto ai contenuti di questo decreto di regolarizzazione. Abbiamo pubblicato nei giorni scorsi una riflessione di Gianfranco Schiavone in video, in cui appunto sottolineava quali erano gli aspetti negativi o critici di questa regolarizzazione. Ci stiamo attivando anche ovviamente in coordinamento con le tante altre realtà che si occupano di tutto ciò. Abbiamo partecipato ieri, se non sbaglio, adesso Gianfranco ci spiegherà meglio, ad una riunione del gruppo dei 250 con cui stiamo cercando di promuovere una proposta di emendamento, e stiamo cercando di attivare nei vari territori in cui siamo presenti, ma cercando di allargare un po' il raggio di azione, delle proposte di azione per ottenere dei miglioramenti o quantomeno sottolineare gli aspetti, i limiti di questo decreto, affinché si possa pensare di migliorarlo, visto che questo non è migliorabile probabilmente da un punto di vista di iter legislativo, quantomeno di proporne altri. Quindi oggi abbiamo convocato questa assemblea, a cui stiamo partecipando in ormai 40 persone, sono molto contento, da diversi posti d'Italia. Purtroppo ancora una volta un'assemblea virtuale, e speriamo presto di liberarci da questi maledetti strumenti e di poterci incontrare e di poter promuovere nuovamente un forum fisico, corporeo, e al fine di capirci e sentirci meglio in generale nell'esistenza. E abbiamo appunto promosso questa assemblea e a introdurre, oltre a me, ci sono appunto Gianfranco Schiavone dell'ASGI e di ICS, attivo nel forum per cambiare l'ordine delle cose sin dalla sua nascita, e Mimma D'Amico del Centro Sociale Ex Canapificio di Caserta, anche lei attiva sin dall'inizio nel forum, che ci, insomma, aiuteranno a inquadrare un po' qual è la situazione rispetto al decreto, qual è la situazione rispetto ai tentativi di pressione per il cambiamento di questo decreto e quali sono un po' le prospettive rispetto alle quali proviamo a avanzare delle proposte. Ma questa è un'assemblea, quindi chiedo a Gianfranco e Mimma di essere succinti e di non rubarci troppo tempo, e lasciamo ovviamente lo spazio alle tante persone che si sono unite a questa assemblea per interventi che siano sia di domande, di richieste anche di di dubbi rispetto alla complessa applicazione del decreto o di testimonianze di quali sono le contraddizioni che questo decreto apre poi nella realtà, nelle vite delle persone, ma anche di proposte di azione comune. Quindi lascerei la parola subito a Gianfranco. Dici un po', Gianfranco, appunto, che cosa sta succedendo intorno a questo decreto. Hai già ben espresso nel video che citavo prima quali sono, diciamo, gli aspetti contraddittori e negativi di un decreto che ovviamente contiene anche degli aspetti positivi, perché comunque permette la regolarizzazione di alcuni degli irregolari, per cui ovviamente partiamo da cogliere questo evento come una possibilità, un'apertura, ma ci poniamo nell'ottica di tentare di migliorarlo se è migliorabile o di intraprendere nuove direzioni, nuove azioni. Quindi se Gianfranco ci vuoi un po' dire che cosa sta succedendo intorno al decreto nel paese. Sì, grazie. Allora, come diceva Andrea, non facciamo un'esposizione, no, del testo, perché prenderei troppo tempo e perché penso che in parte lo conoscete tutti, in parte magari i dubbi o le interrogativi possono nascere dai vostri interventi, no? E che magari poi facciamo una cosa qui, per carità, in più dialogica, insomma, più interattiva. E comunque con un'ottica, diciamo, che questo non è un corso di formazione sull'applicazione del decreto, no? Ma è una riunione, appunto, di iniziativa al basso, no? Per vedere quello che si può fare, quindi non è che facciamo un corso, no? sul decreto. È un decreto che è estremamente problematico nella sua lettura, tanto che vi dico con una battuta che si va da un estremo all'altro. Praticamente c'è chi sostiene che tutto sommato nella sua vaghezza e nei punti poco chiari potrà essere applicato in maniera molto inclusiva, fino ad arrivare appunto a chi invece ritiene che questa vaghezza, che non sappiamo se è dovuta a una volontà o anche a una, diciamo, o a un testo collezionato con grande fatica, no? E con, come dire, quindi alla fine anche tecnicamente un po' mal arrangiato, sia appunto una scelta o una semplice risultato, no? Di una situazione politica chiaramente di tensione su questo testo. Per cui effettivamente, dicendo questo, già dico una cosa che potrebbe essere importante, cioè che alcune proposte di emendamento potrebbero anche andare incontro, diciamo, a possibili, diciamo, non dico desideri dell'esecutivo, ma diciamo essere accolte come in maniera non necessariamente sfavorevole. E quindi vale la pena di formularle, a mio avviso. Così come vale la pena di formulare alcune proposte di cambiamento oggettivo, invece dove invece gli equivoci non ci sono, ma sono reali diversità del testo, ma che appaiono particolarmente inique, no? e irragionevoli. Sapendo che gli margini non sono molti, questo lo sanno tutti, non sono molti perché sia per le dinamiche parlamentari, il testo è assegnato alla Camera, alla Commissione Bilancio, che sarà l'unica che avrà di fatto la parola, perché la Commissione Affari Costituzionali potrà fare un parere, ma da inviare alla Bilancio, ma insomma di fatto lì si vota, e poi la complessità di tutto il decreto rilancio la renderà molto contingentati i tempi in aula. Non è detto che non vi sia un voto di fiducia, non è detto, e al Senato sicuramente ci sarà, quindi avremo una discussione in una delle due camere, ed è probabile che ciò che poi alla fine venga assorbito è ciò che lo stesso governo faccia proprio, insomma, cioè quei cambiamenti che lo stesso governo, ripeto, può fare proprio. Quindi dobbiamo essere consapevoli che i margini, ripeto, sono molto ridotti, facendo però comunque, ripeto, presenti alcune, diciamo, evidenti, no, irragionevolezze, e su alcune cose che non hanno proprio nessun senso o indicano, no, delle misure inique. Certo, un voto mi sembra giusto, necessario, perché chiunque poi si prende la responsabilità di aver votato. Faccio riferimento, tanto per essere chiari, ma non è l'unica, ma più, la più plateale delle vicende che riguarda questo decreto, cioè la limitazione ai settori di lavoro. Limitazione che vale sia per l'emersione dal lavoro nero, cioè sia per il famoso secondo comma, cioè quindi la possibilità di avere il permesso temporaneo per aver appunto lavorato in uno dei settori e addirittura tornarci a lavorare nei medesimi settori. Cioè una sorta di gabbia per cui non si può fare l'emersione se, come dire, non sei stato o non emergi o non farai il bracciante, il colf o l'assistente domiciliare. Se fai il cameriere non sappiamo cosa farci. Quindi sicuramente è una situazione, molti hanno detto sì, però sono i principali tre settori, è vero, sono i principali tre settori, ma non gli unici. Questa non sarà, è un esempio, per esempio, di battaglia molto difficile, perché è chiaro che l'accordo su questi tre settori è stato preso appunto come un accordo, però è anche tanto vero che insomma un tentativo di, come dire, per essere un altro per dignità, no? Va assolutamente, di allargamento va assolutamente fatto. E così volevo solo fare un esempio, ripeto, perché guardando nel testo ci sarebbero tante cose da dire, però appunto pensavo che la cosa più importante sarebbe quello di sentire dai territori, questo anche per ovviamente sì, chiaramente la campagna cercherà di presentare o di, diciamo, di condividere degli emendamenti che si stanno diciamo, stendendo in questo gruppo, che è un gruppo improvvisato, informale, che però sono anche persone che si è un po' trovata per questo, insomma, di varie estrazioni e competenze, e che comprende anche molte persone dell'ASGI, ma non solo, perché ripeto è molto, molto trasversale, e quindi condividere questi emendamenti, magari non tutti saranno condivisi neanche da tutti i presenti, perché succede, per carità, non è detto che no, però credo la maggior parte sì, e di provare a saranno pronti entro domani, quindi io spero che domani saranno assolutamente condivisi, anzi dovrebbero essere entro questa sera, e che magari con i contatti che ognuno ha di provare a promuoverli, farli passare, cioè fare comunque iniziativa sui propri territori a partire, diciamo, dalla proposizione, ripeto, di alcuni emendamenti che sono facilmente spiegabili, che sono, come dire, al di là del loro tecnicismo, rappresentano acquisizioni, insomma, di valore, di politica in senso alto del termine, cioè appunto, scusate, ma perché facciamo questo o perché non facciamo quest'altro? No? Perché si può anche non fare la regolarizzazione, per esempio, chiaramente è una scelta, visto, è una scelta ovviamente che non condivido, è evidente, però paradossalmente dico, si può anche non fare la regolarizzazione ed avere una scelta politica, ripeto, assolutamente criticabile, ma chiara. Ma nel momento in cui la si fa, bisognerebbe ispirarsi a dei criteri di ragionevolezza, non discriminazione e per l'appunto equità, e quindi di farla bene, sostanzialmente, o di non farla, diciamo, particolarmente male. Un po' questo è il senso del mio breve intervento, ma che vuole raccogliere quello che voi pensate, quello che i migranti nei vostri territori già pensano o hanno capito o non hanno capito, quindi, come dire, quali sono le percezioni, sì, in modo da poter costruire comunque un po' di pressione. Tutto si giocherà in tempi brevissimi, lo dico subito, perché il deposito per gli emendamenti è il 3 giugno, per cui capite bene che parliamo di 3-4 giorni da domani, e poi certo dopo il deposito in realtà qualche altro giorno o una settimana per, diciamo, l'approvazione, eccetera, il dibattito, poi forse qualcosa in aula ancora, però ecco, capiamo che questa fase si chiuderà estremamente presto. Mi fermerei qua per il momento. Grazie Gianfranco. Allora, prima di passare la parola a Mimma, che voleva fare, diciamo, spostare anche una direzione più di, diciamo, call to action, di capire come muoversi ancora in altre direzioni, oltre che intorno al decreto e alla gestione del decreto, visto che Gianfranco ha aperto sicuramente tante direzioni di interesse, forse di voglia di chiedere qualcosa, lascerei un attimo spazio a se c'è qualcuno di chi è collegato che vuole intervenire rispetto a quanto Gianfranco ha detto. E come si fa? Prendete la parola, semplicemente vi smutate, giusto? Serena, saluto Serena Chiodo che ci sta coordinando, che è la responsabile comunicazione del forum. Sì, allora, chi vuole intervenire può, a meno che non siano poche persone, può scrivere in chat, soprattutto man mano che andiamo avanti nell'incontro, e io prendo i nomi e do la parola, così non ci accavalliamo. Quindi se qualcuno già vuole fare un intervento, se magari scrive qua nella chat a destra. Ok. Ma chi vuole, allora, intanto se non c'è nessuno immediatamente, procediamo. Allora, prima di passare a Mimma, volevo salutare Giovanna Cavallo, che dovrebbe essere collegata e che può accendere la camera se può. Camera non posso camera ancora. No, perché sei in giro. Sono ancora. In macchina, sì. Vabbè, volevamo salutare. Giovanna sta coordinando un po' tutta la, diciamo, il lavoro del forum. E molti di voi probabilmente l'hanno anche sentita in questi giorni, si sta appunto attivando molto per sollecitare la partecipazione di diverse realtà in diverse città in Italia e sta anche cercando di coordinare una relazione con le istituzioni. Ecco, la vediamo in macchina, vedete, è in azione essenzialmente, è in movimento. Volevi ricordare un prossimo appuntamento legato a questo, giusto, Giovanna? Sì, allora intanto ciao a tutti. Molte delle cose che sono state dette riguardano ovviamente la possibilità di poter intervenire efficacemente su una legge che ha nel complesso molti vulnus e molti buchi oscuri, sui quali secondo noi con l'azione dal basso, pressioni diciamo anche sul dibattito parlamentare, si può intervenire. Quindi abbiamo uno spazio, uno squarcio che dobbiamo in qualche modo allargare, che possiamo allargare. Per questo motivo la campagna, visto che stiamo cercando di coordinare a partire dalla possibilità di costruire un percorso di denuncia, ha al suo interno degli step che hanno delle aperture di spazi di dibattito politico e parlamentare. A questo proposito, infatti, abbiamo condiviso l'idea e la vogliamo promuovere anche attraverso il confronto con tutti voi presenti qui in questa zoomata, di poter agire un incontro, di poter organizzare un incontro che abbiamo già in qualche modo pensato per venerdì prossimo, al quale abbiamo già strappato la disponibilità per il quale abbiamo già avuto la disponibilità di due parlamentari delle due forze politiche che in qualche modo in Parlamento possono aiutarci a confrontarci su eventuali emendamenti. Altri sono in qualche modo da coinvolgere, da confermare nei prossimi giorni. Abbiamo sia i membri di un partito che in qualche modo si è sempre battuto, ha sempre attraversato il nostro forum, che è Riccardo Maggi con i radicali, ma anche attraverso la possibilità di avere la campagna Ero Straniero come ospiti in questo dibattito, che ha un ruolo abbastanza importante ha avuto un ruolo importante in questi anni di definizione di procedure che dal basso potessero agire cambiamenti. Abbiamo con noi anche invitato un esponente di Italia Viva, quel partito che in qualche modo attraverso il suo ministro ha proposto questa legge. E quindi Gennaro Migliore ha anche accettato di poter dibattere con noi dell'eventualità di agire dei cambiamenti attraverso degli emendamenti, dei cambiamenti di buon senso, io li chiamerei. E per l'inizio di giugno, quando questa norma sarà diventata in qualche modo più stabile, quando avremo capito un po' le conseguenze di tutte queste vicende che si stanno susseguendo a partire dalla sanatoria, abbiamo la possibilità di interloquire anche con il viceministro Mauri e con il ministro Provenzano. Quindi un ulteriore dibattito che organizzeremo agli inizi di giugno, con il quale abbiamo già avviato una interlocuzione. Quindi c'è bisogno di costruire un aspetto di criticità, c'è bisogno di costruire un'interlocuzione. Partiamo venerdì con la compagine parlamentare sulla quale dobbiamo iniziare una buona pressione di denuncia. Bene. E Mimma, Che cosa è importante cercare di fare in questo periodo per non avere la sensazione che questo era il massimo che potevamo ottenere e basta? Sì, ciao a tutti. Allora, innanzitutto credo che, vabbè, sicuramente a tanti di noi ci viene da piangere, ma per davvero, stando a contatto con le persone che magari aspettavano questa occasione e magari per tanti sarà un'occasione persa, per altri non so. È tutto da vedere perché, come diceva Gianfranco, ci sono anche delle questioni ancora oscure e un ruolo importante sarà giocato anche da come saranno scritti i decreti ministeriali. Ed ecco che quindi ecco questa interlocuzione che proviamo a fare con il vice ministro Mauri, vice ministro degli interni, è importante per cercare in qualche modo di influenzare e cercare di porre all'attenzione la realtà, perché come dire, ancora una volta la realtà delle cose non entra in quella che ci sembra ancora una ennesima legge fatta in base a una fiction, dove si è partito da un ragionamento che chiedeva delle forza lavoro in un settore determinato e quindi ha prodotto questo tipo di accordo politico. Io credo che tutto quello che è venuto dal forum, ci deve in qualche modo far ricordare che in questo momento dovremmo innanzitutto essere molto attivi sui territori attraversando questa fase di regolarizzazione, accompagnando tutte le persone possibili, sia datori di lavoro che diciamo, le singole persone che sperano una regolarizzazione in questo processo che si apre e allo stesso tempo però, come dire, essere attivi anche nell'individuare delle prospettive. Insomma, non finisce il mondo, soprattutto perché non c'è una risposta all'esigenza che cercavamo. Come dire, in questo momento quello che si doveva fare in piena pandemia era quello di un permesso di soggiorno, chiamiamolo di emergenza, un permesso di soggiorno basato sulla presenza delle persone, senza andare a impelagarsi in questioni complicate e anche molto burocratiche che adesso creeranno certamente tanti assembramenti che quindi metteranno anche a rischio la salute delle persone. Questo non è stato, ma questa breccia che si apre nel muro della necessità di una regolarizzazione, noi la dobbiamo cavalcare a partire sia da questa prospettiva di confronto parlamentare, ma anche dalla costruzione sui territori di possibili vertenze che si possono aprire anche con le questure e le prefetture. Soprattutto rispetto, vi faccio un esempio, che non, cioè sono, la butto lì, sono delle idee, delle questioni che appunto dovranno essere ancora sviluppate, ma per esempio rispetto alla possibilità per un cittadino straniero di richiedere un attestato per attesa occupazione di 6 mesi, dovendo aver dimostrato di lavorare in quei settori. Mettiamo il caso che non vogliano allargare e che rimangano quei settori lì. Ma per esempio io non ho avuto un contratto di lavoro nel mio passato, ma se per esempio ho dichiarato dinanzi alla commissione durante la mia audizione che ho lavorato a Foggia 8 ore in un certo tipo di campo e la mia paga è stata un tot e racconto una serie, e come tanti che abbiamo visto in questi anni, racconta una serie di esperienze, beh, quella dichiarazione potrebbe anche comprovare un rapporto di lavoro che nei fatti c'è stato, ma formalmente non è stato in qualche modo, non risulta perché non è stato formalizzato. Quindi, ad esempio, noi potremmo aprire un varco rispetto a questa possibilità, diciamo per alcuni casi che magari possiamo incontrare, cioè parlo sempre di persone che hanno perso il permesso di soggiorno. Così come noi dobbiamo tenere ben presente che purtroppo anche all'epoca del coronavirus gli effetti dei decreti sicurezza sono sempre lì e continuano. Quindi, come dire, ad esempio, tutte le persone che stanno perdendo il permesso per motivi umanitari continuano a perderlo. E per queste persone, magari in questo periodo, sui territori, se riusciamo a entrare in contatto con loro, potremmo anche, diciamo, sviluppare un ragionamento che a livello nazionale possa chiedere un rinnovo di questi permessi di soggiorno per motivi umanitari che in questo momento, causa anche pandemia, non hanno potuto intercettare la possibilità di fare dei contratti di lavoro, che possano magari essere rinnovati o con un permesso per casi speciali o con un permesso per attesa occupazione, per salvaguardare la regolarità di persone che, diciamo, in questo momento non hanno, come dire, non hanno, non devono diventare irregolari. Quindi, come dire, si aprono anche delle possibilità, e anche in queste maglie strette, al di là di quello che mi auguro riusciremo a fare e a modificare in Parlamento, comunque è fondamentale che sul territorio, come presidi in questo momento, in qualche modo, magari se conosciamo dei parlamentari, possiamo provare a intercettarli, e dall'altro possiamo diventare dei presidi per far sì che si aprano delle interlocuzioni e delle mobilitazioni per cercare di allargare il più possibile e anche di continuare a fare una battaglia, come facevo prima l'esempio dei motivi umanitari. Altro piccolo pezzettino che aggiungo: se avete visto nel decreto rilancio, c'è anche una questione che riguarda l'accoglienza, la nostra cara accoglienza in crisi fatta a pezzettini, sempre nel decreto sicurezza. C'è quell'articolo 16 che, causa emergenza Covid, ci dà la possibilità di accogliere nello SPRAR i richiedenti asilo, come si faceva un tempo. Ma attenzione, non sia mai che si accolgono i richiedenti asilo che però poi possono essere trattati come gli altri. Quindi ci dà l'opportunità di accogliere i richiedenti asilo, ma di offrire loro solo vitto e alloggio, perché per loro non sono riconosciute le spese riguardo all'integrazione, quindi ad esempio alle borse lavoro, a percorsi di formazione lavoro. Quindi anche questo potrebbe essere un'altra, diciamo, battaglia da fare, cioè di far sì che i richiedenti asilo, sì, bene, si è aperta una breccia anche solo per il tempo dell'emergenza, poi vedremo, ma intanto, siccome non comporta altri costi perché sono già pagati quei servizi, allora cerchiamo di fare di far sì che magari un emendamento, un dibattito possa sviluppare un'accoglienza, ma a parità di servizi. Mi fermo qui, poi magari ci ritorniamo. Molto bene, allora c'è una richiesta di intervenire da Bologna, di Francesco Manieri, a cui do volentieri la parola. Prego, Francesco. Grazie, mi sentite? Tutto a posto? Funziona? Sì, bene. Niente, allora, io appunto sono il presidente di un'associazione che si chiama Libertà e Restare, con cui mi sono registrato questa sera, però volevo intervenire a nome di una rete molto più grande, che è la rete Sulla Stessa Barca, che è nata da più di un anno a Bologna, sempre sui temi dei diritti, dell'accoglienza e, abbiamo detto, dell'interazione. E noi abbiamo affrontato questo tema del decreto e ci siamo mobilitati per come potevamo, limitatamente ai vincoli della pandemia e della distanza. E abbiamo approfittato del fatto che alcuni consiglieri comunali a Bologna hanno presentato un ordine del giorno proprio dove chiedevano un'apertura sui diritti, sulla regolarizzazione appunto dei migranti presenti. Nel frattempo appunto è andato avanti anche questo decreto e questo ordine del giorno è stato approvato a maggioranza. Noi avevamo sottoscritto un appello firmato da appunto da quasi una cinquantina di realtà, quindi praticamente tutte le nostre più qualche altra realtà un po' più esterna. Il decreto è stato appunto approvato e ci hanno detto che il, proprio questa mobilitazione che è venuta dal basso ha fatto sì che non fosse un semplice atto formale, ma che avesse un certo peso in più. Dopo l'approvazione abbiamo scritto un'altra lettera al sindaco di Bologna e alla giunta, dove chiedevamo azioni concrete in questa direzione, perché normalmente gli ordini del giorno vengono ridiscussi dopo un anno, in questo caso un anno sarebbe stato assurdo, e quindi ci volevano azioni più mirate, come ANCI, come regioni, per arrivare appunto al livello parlamentare. Stiamo andando avanti, abbiamo preparato una serie di hashtag, diciamo che uno è diritti per tutti e l'altro in regola subito, con qualche immagine che cerchiamo di fare girare sui social, anche lì per cercare un po' di aumentare la consapevolezza, l'attenzione in questo senso. È chiaro appunto che, come dicevate, il livello è quello parlamentare e mi fa piacere che Giovanna abbia ricordato la campagna Ero Straniero, perché anche nel nostro dibattito è da più parti, visto che anche noi sul territorio ci siamo battuti per la campagna Sia Io Accolgo che quella Ero Straniero, riteniamo che vada tirata fuori dai cassetti quella proposta di legge di iniziativa popolare e utilizzarla appunto anche un pochino possibilmente in questo dibattito e in questo percorso per una rivisitazione un po' generale appunto sul tema accoglienza e diritti e integrazione, perché noi siamo convinti che garantire i diritti a tutti e per tutti sia conseguentemente anche una garanzia per la nostra sicurezza, la sicurezza di tutti, insomma. Ecco, quell'ultima cosa appunto che volevo dire è che credo di poter dire a nome della rete è che noi ci siamo, insomma, quindi nel momento in cui voi portate avanti questa campagna, questa azione anche a livello dei parlamentari che saranno disponibili e quant'altro, cioè poter far pesare anche una realtà diffusa del territorio bolognese che si sta muovendo in questo senso, può essere un peso in più da portare. Ecco, io credo che vadano cercate molti di questi sostegni proprio per fare in modo che non arrivino tante proposte variegate, ma se c'è un percorso ben strutturato e consolidato che va in quella direzione, metterci qualche macigno in più dietro, quindi qualche un po' di peso, un po' di rilevanza. Quindi io credo che voi possiate dire che anche la rete sulla stessa barca di Bologna c'è in questo percorso e quindi utilizzateci, insomma. Poi se possiamo fare qualche cosa di più, di diverso, tanto meglio, insomma. Noi volevamo appunto coinvolgere i nostri, almeno le persone più vicine e più sensibili in questo senso a livello regionale, perché possa essere anche a livello di assemblea delle regioni sostenuto questo percorso, però mi sembra di capire che i tempi sono stretti, sono brevi, quindi bisognerà forse muoversi direttamente a livello parlamentare. Quindi andiamo avanti in quella direzione, noi ci siamo e continuiamo a muoverci. Se poi ci sono delle indicazioni su cosa fare, come farlo, ben volentieri le prendiamo in considerazione. Grazie. Ci fa molto piacere, Francesco. Sicuramente il forum nasce proprio con la voglia di unire punti di pressione e capacità di pressione dei vari territori, senza mettere bandierine in testa a nessuno, ma cercando di costruire pressione in maniera più diffusa e puntuale nello stesso tempo. Per cui la tua proposta e la tua, diciamo, invito a usarvi, tra virgolette, è assolutamente nella direzione in cui noi invitiamo anche ad usare il forum, che è uno spazio aperto senza, appunto, senza presidenze e bandiere da mettere da nessuna parte. Sono presenti qui anche qualche altro nostro rappresentante, c'è qui in assemblea. Salutiamo tutti i bolognesi. Se c'è qualcun altro di altre città che vuole raccontarci anche qualcosa che sta succedendo nelle altre città, qualche direzione di pressione, sicuramente la linea della pressione verso le istituzioni locali è una linea utile poi ad aumentare la pressione verso le istituzioni nazionali, anche se, come diceva Francesco, come spiegavano tutti, in questo momento c'è un'esigenza un po' di verticalizzare la direzione a livello parlamentare. Però è tutto percorso che permette di unire forze anche in altre direzioni. Non so se appunto c'è qualcun altro da altri territori che ha voglia di prendere la parola. Sì, Maria Cristina. No, forse solo una cosa, direi. Valeria, ok. Chi sta parlando? No, c'è stata un'intrusione di una voce, ma non ho capito. Era Valeria. Ah, ok, che voleva intervenire o... Sto facendo un casino, sì. Finito. Ha lasciato acceso il microfono, semplicemente. Valeria da Brindisi ha lasciato acceso il microfono, sono cose che succedono. Ho visto che sono comparsa io forse un attimo. Sì. Da Bologna, per confermare quello che ha detto Francesco, io sono di Refugees Welcome Italia e confermo, e sono all'interno della stessa rete di cui fa parte Francesco e molte altre organizzazioni, confermo che noi siamo disponibili, quindi come ha detto lui, utilizzateci. Grazie. Grazie Maria Cristina. Gianfranco, vuoi intervenire? Ti vedo agitato. Vai. No, volevo approfittare, diciamo, dell'intervento della Refugee Welcome per dire, per esempio, che una delle cose più paradossali riguarda proprio i richiedenti asilo, no? In questa regolarizzazione, nel senso che allora qui, anche qui ci sono interpretazioni diverse, per carità, io preferisco aderire a quella un po' più cauta, no? Per poi non trovarmi, per non far trovare le persone in difficoltà. E quindi sulla base, diciamo, un'interpretazione un po' più così, non dico restrittiva o più aderente a questo testo, praticamente noi ci troveremo sicuramente di fronte a uno scenario nella quale tutti dicono che lo scopo del governo, addirittura alcuni sostengono che lo scopo prioritario dopo i braccianti agricoli, ecco, sicuramente che di cui c'è bisogno, ahimè, lo scopo prioritario sia quello di avere un effetto deflattivo sul contenzioso appunto in materia di asilo. Per cui tutti i richiedenti o una buona parte dei richiedenti ricorrenti, anche i richiedenti ricorrenti che hanno un buon inserimento sociale, lavorativo, eccetera, e che magari anche grazie a questo, come dire, cercano di far valere le loro ragioni in sede giurisdizionale, appunto l'integrazione sociale, la giurisprudenza che si era consolidata prima prima dell'intervento del media decreto Salvini 1, no? Sull'integrazione sociale come elemento fondamentale, non unico, ma fondamentale per il permesso umanitario, eccetera, eccetera. Ok, quindi sembra che tutti dicono, ok, guardate, l'obiettivo è avete un lavoro, passate al lavoro, no, la smettete con questi ricorsi che tanto non vanno da nessuna parte e facciamo un accordo, insomma, in questo modo. E se questa era l'intenzione, l'intenzione non era giunta dal testo, perché appunto, prima di tutto, la maggior parte molti richiedenti, molti ricorrenti non hanno lavori nei settori di cui indicavano, quindi torna la questione del settore. E in ogni caso, se anche l'avessero, dovrebbero aderire alla regolarizzazione soltanto se quel lavoro attuale, vuol dire, in realtà viene perso e poi ripreso, perché appunto se il rapporto di lavoro è attuale non rientrano nel comma 1, perché il comma 1 è per concludere un contratto di lavoro adesso o sanare un contratto di lavoro irregolare. Allora se io lavoro regolarmente come badante è un problema, perché appunto lavoro regolarmente come badante, non devo far emergere un lavoro regolare e non devo far concludere da adesso in poi un lavoro. E siccome non posso convertire, appunto perché non è scritto che si può convertire il titolo da richiesta di asilo a lavoro, praticamente cosa faccio? Quindi qualcuno dice no, l'interpretazione estensiva dirà che queste persone in realtà possono, di fatto non si devono licenziare per poi essere riassunte dalla medesima autorità di lavoro nella stessa nazione, il teatrino all'italiana, non occorre fanno una domanda, poi la domanda verrà convertita, gli daranno il permesso, ci sarà la conversione, lasceranno la domanda di asilo e poi avanti. Cose possibili, ma molto tirate, se non c'è appunto una previsione di emendamento chiara sulla convertibilità, appunto per i richiedenti asilo, oltre che vabbè, per l'estensione delle mansioni, ma le cose si dicevo prima. Quindi questo è un grande argomento per la campagna e per chiunque si occupi dei rifugiati, che sembra, ripeto, essere uno degli argomenti a cui il governo si dice essere sensibile. E poi si vedrà. Bene. C'è qualcun altro da qualche altra città che ha voglia di raccontarci che succede in altri luoghi? Qualcuno che ha voglia di raccontarci che cosa, quali sono delle conseguenze che magari non abbiamo sottolineato abbastanza, o quali sono delle, o se qualcuno ha delle idee di azioni? Appunto, noi stiamo tentando di concentrare la nostra azione sulla pressione politica istituzionale. Giovanna ci ha spiegato che cosa andremo a fare già venerdì questo, e però stiamo tentando di, e i primi di giugno poi, e stiamo tentando anche di figurarci delle altre direzioni di azione, e ben vengano proposte, idee o iniziative che avete già magari in mente nei luoghi virtuali o reali in cui agite, e che potremmo aiutare, perché questo poi è anche il percorso del forum, è quello anche di sostenere azioni fatte nei luoghi. Davide dal Molise, prego Davide, molto volentieri. Ciao, no, io volevo sottolineare altre due cose secondo me importanti. Una è il costo, perché sì, ci possiamo dire che come prevede la legge a pagare i 500 euro sarà il datore di lavoro, se ce lo vogliamo dire, ma sappiamo benissimo che nessun datore di lavoro pagherà i 500 euro, ma saranno i migranti. E 500 euro è un costo esorbitante. A questo va aggiunto il costo dei passaporti, perché è molto probabile, cioè almeno la norma così prevede, che servirà il passaporto. E questo ha dei costi esorbitanti, oltre alla difficoltà ad ottenerlo. Quindi penso che la campagna sia giusto che sottolinei e denunci molto anche questi costi. E un'altra cosa, un motivo ostativo per i migranti per accedere alla sanatoria è che siano stati condannati per la legislazione sugli stupefacenti, e non viene chiarito se solo in caso di aggravanti o anche senza aggravanti, il che vuol dire che vieni beccato in gruppetto e vi state facendo 4-5 canne, lì già ci può essere una condanna. E tra l'altro, sottolineo questo punto perché facendo sportelli in carcere, molti piccoli spacciatori che sono stati condannati facevano gli spacciatori perché non avevano altro introito. Quindi una norma che dovrebbe aiutare a promuovere il lavoro, in realtà condanna persone che avevano proprio problemi a livello lavorativo a non poter partecipare alla campagna. Ho finito. Giovanna, suppongo che su questi esempi dal Molise tu ne abbia altri da aggiungere volendo. Ti vedo collegata da casa. Sì, eccomi. Tu allora, e Monna Lisa. Sì, no, in realtà era... Posso stare qua perché di là c'è la... Era la donna con l'ermellino. No, mi metto di qua, che in cucina c'erano un po' di rumori molesti. E allora... Era meglio di là. In realtà reati come il tema dell'espulsione Schengen, inoltre... Poco, non mi sentite? Male. male. Non mi sentite? Mi sentite adesso? Sì. Adesso sì. No. La casa. Allora, dicevo, da un punto di vista più critico, il tema dei reati è un tema molto importante che noi dobbiamo avere la capacità di poter porre nella maniera più giusta possibile, perché per esempio una delle cose che non è stata chiarita è se io ho maturato i requisiti per la riabilitazione penale, magari qualsiasi diciamo meccanismo è possibilmente accessibile per quanto mi riguarda, potrebbe essere ad esempio il fatto che io abbia presentato un'istanza di riabilitazione oppure abbia maturato i requisiti. E anche le espulsioni Schengen sono un tema fondamentale, perché le persone che hanno un'espulsione qui in Italia sono eleggibili a questo tipo di procedimento. Le espulsioni che sono state invece prese in altri paesi Schengen purtroppo sono stative, e questo crea sicuramente una disparità. Lo dico perché mi assolutamente sono d'accordo con il ragazzo che ha parlato prima, perché oggi il tema penale per i migranti è un tema che riguarda tantissime persone, tantissimi migranti che sono difesi male, sono difesi poco, sono difesi nella maggior parte dei casi da avvocati che patteggiano direttamente, mi assumo cioè la responsabilità di quello che dico, perché abbiamo nel corso degli anni trattato tantissimi casi come questi, e c'è una facilità nell'incorrere in una condanna penale anche lì dove in realtà ci sono una serie di elementi che diciamo propenderebbero per l'innocenza o per il non luogo a procedere, e per cui si marchia a vita una persona che di fatto poi non riesce più a emergere. Su questo tipo di emendamenti, su questo tipo di spazi, noi dobbiamo inserire un'interlocuzione politica importante con il Ministro dell'Interno, perché ci sono delle possibilità sia nell'ambito parlamentare, se non ci sono, nell'ambito dei decreti d'attuazione, di valutare ad esempio le riabilitazioni come strumenti per i quali si può agire in deroga a una procedura di emersione. Della serie, anche se sono stato condannato, di fatto oggi sono un'altra persona e di fatto non vengo espulso, ma devo essere in qualche modo sanato in questa situazione qui. Questo per esempio è una delle cose che proporrei di diciamo in qualche modo far emergere nel dibattito con le compagini parlamentari e con le forze politiche che ci apprestiamo ad incontrare, anche su un piano di relazione locale e di criticità. Sarebbe fondamentale, quando parte la sanatoria, fare in modo che il forum agisca localmente sulle criticità, sulle prime criticità che si evidenzieranno, perché la possibilità di poter fare lobby parlamentare, politica, anche agendo delle richieste al Ministero dell'Interno può farci gioco. Quindi nella prima settimana noi dobbiamo avere la capacità di leggere quello che succede per farne delle proposte di buon senso al Ministero dell'Interno. Secondo me il forum deve avere, insieme alle altre reti, ero straniero, anche al Grado 250, deve avere la possibilità e la forza di poter leggere questo tipo, vedere con la campagna visto questo tipo di contraddizioni e saperle cambiare in corso d'opera, visto che stiamo in un periodo di emergenza tutti insieme. Beh sì, credo che appunto il motto visto, la parola visto diventerà utile anche nella sua declinazione di avete visto ciò che questa regolarizzazione non permette di regolare, vedete quali sono le conseguenze di questi spazi non chiari, contraddizioni e limiti presenti in questo decreto. Quindi penso che, così come siamo partiti in queste settimane nel raccontare quali erano le conseguenze delle politiche migratorie precedenti, a partire ovviamente dai decreti sicurezza del precedente governo, ma poi ovviamente in collegamento anche con le leggi precedenti e le norme che da anni insomma, determinano alcune conseguenze di ingiustizie nella gestione delle politiche migratorie. Oggi saremo pronti a raccontare quali sono le conseguenze, ciò che c'è da vedere anche nelle conseguenze di questi decreti, per cui invitiamo tutti, a partire dal Bologna e dal Molise, che già hanno già intervenuto, ma insomma da tutti i territori collegati, a raccontare quali sono delle assurde conseguenze di un decreto che meriterebbe, se non di essere rivisto, ma almeno di essere accompagnato con altri percorsi normativi capaci di recuperare i limiti e le contraddizioni presenti in questo decreto. Io continuo ad invitare altre persone di altre città a intervenire, a raccontarci, a chiedere. Questo chiaramente è uno spazio aperto, è già un'ora che siamo in assemblea, per cui potremmo anche essere soddisfatti di questo primo percorso. Se nel frattempo non ci sono, sì? Se non ci sono interventi, io potrei, per esempio, insomma, per stimolare anche un po' il dibattito, noi avevamo fatto alcune domande nel forum di registrazione di questa giornata, di questa assemblea, ed erano venute alcune suggestioni, diciamo, rispetto agli emendamenti e alle modifiche necessarie in merito alla misura prevista dal governo. Quindi possiamo magari leggerne qualcuno in maniera tale da stimolare delle idee, un dibattito un po' più specifico sulle modifiche da fare. Io sono davanti appunto a questi form e alcune delle modifiche necessarie. Beh, prima di tutto si parla, quasi tutte le risposte parlano della necessità di ampliare la regolarizzazione a tutti. A tutte le categorie professionali, che è stato insomma quello che da cui un po' si è partiti, e quindi appunto non soltanto il settore agricolo e il settore della cura domestica, ma appunto, come diceva Gianfranco, tutti i settori. Una delle questioni è anche rendere le pratiche più snelle, perché appunto, come ci può anche testimoniare Giovanna e come praticamente ci possono testimoniare tutti presenti all'assemblea, la burocrazia è nemica, diciamo, di queste misure. Lo abbiamo visto anche nelle misure precedenti e abbiamo visto anche come tutti gli aspetti burocratici facilitino in realtà l'incorrere in truffe rispetto alle persone più vulnerabili, che in questo caso sono i migranti e le migranti che devono in qualche modo soggiacere a questo tipo di burocrazie per avere un permesso di soggiorno. Io intanto scorro le motivazioni. Vediamo che tendenzialmente appunto parlano di estendere la regolarizzazione a tutti i settori lavorativi, possibilmente non collegandola al lavoro ma alla presenza, che era una degli stimoli, delle suggestioni che arrivavano proprio dal forum e dalla campagna Visto prima in realtà prima della data in cui poi è stato effettivamente comunicato dal governo questo decreto. Quindi già prima il forum proponeva una regolarizzazione sulla base della presenza e non della categoria del lavoro, insomma, non del lavoro. Una riduzione, ecco qua una misura concreta che era un po' anche quella che veniva affrontata poc'anzi, una riduzione degli importi dei versamenti, cosa che magari permetterebbe anche di sganciarsi un pochino dalla necessità di appoggiarsi per forza di cose al datore di lavoro, che spesso e volentieri fa pagare i contributi al migrante o alla migrante. Poi ecco, si allarga lo sguardo in una di queste suggestioni alla necessità di proporre una modifica radicale del sistema, quindi che è un po' quello che appunto, come diceva Andrea, si propone la campagna Visto, quindi a partire dalla contestualità allargare lo sguardo a una necessaria modifica del sistema, insomma, della normativa legata all'immigrazione in Italia e conseguentemente in Europa. Però ecco, diciamo che queste sono le suggestioni che sono arrivate, in particolare relative al decreto regolarizzazione. E che cercheremo di portare ovviamente all'attenzione delle istituzioni con cui avremo i confronti nei prossimi giorni. Si è accesa una telecamera di Manuela Serrentino, non so se vuole intervenire. Io chiamo partecipo da Como e sono in rappresentanza di Como Senza Frontiere. E noi ci stiamo trovando anche come gruppo comunicazione per capire come affrontare appunto questa apertura. In questo periodo l'osservatorio giuridico non ha potuto esercitare direttamente a causa del lockdown, però sono arrivate moltissime telefonate non appena è uscita questo annuncio della possibile sanatoria. Di fatto però noi siamo un territorio che non sanerebbe nessuno, perché nella nostra zona, la nostra zona non ha una vocazione agricola e quindi non ci sono braccianti. E la cosa che in qualche modo possiamo fare è quella appunto, attraverso l'osservatorio, valutare la tipologia delle domande, la tipologia dei lavori che eventualmente emergono, anche per avere di fatto un quadro per dire vabbè, saniamo, però poi la maggior parte dei migranti fanno altri lavori in molte parti del territorio. Quindi in questa fase ci stiamo limitando fondamentalmente a una ricognizione delle possibili domande, siamo perfettamente d'accordo nel trovare anche delle linee comuni da poter sostenere e da divulgare anche da poter diffondere all'interno anche del nostro territorio. Grazie Manuela. Allora c'è una richiesta da parte di Anna Maria di ripetere che cosa abbiamo pensato per venerdì per i primi di giugno. Vai Giovanna. Allora, mi sentite adesso? Allora, la situazione è questa. Noi venerdì abbiamo pensato di promuovere un confronto con un pezzo delle forze politiche che stanno in Parlamento, in particolare la Camera dei Deputati. Abbiamo pensato al momento topico per costruire un'interlocuzione per mostrare ai parlamentari la necessità di modificare in alcuni aspetti il decreto che deve essere ovviamente convertito in legge e che da domani, come diceva Gianfranco se non mi sbaglio prima, comincerà questo iter. Abbiamo invitato, come dire, partendo da quello che abbiamo in qualche modo costruito e ottenuto attraverso i contributi territoriali della campagna Visto e quindi le contraddizioni che sono state evidenziate anche per coloro che dovrebbero in qualche modo partecipare a questa emersione, partendo da un contesto che ci ha visto nodo di una rete nella costruzione di emendamenti da parte di giuristi, di attivisti e di associazioni, abbiamo pensato di mettere a disposizione il nostro spazio, in questo caso virtuale, per aprire questo dibattito, cercando di dare ai parlamentari la possibilità di agire dei cambiamenti che noi riteniamo di prima di tutto di buon senso, non di, oltre che di principi che giuridicamente devono essere accettabili e che ovviamente riguardano la possibilità più larga possibile, inclusiva possibile di questa emersione. l'immigrazione, la possibilità di rendere appunto meno burocratico possibile l'accesso a queste procedure, e tutta una serie di chiarimenti di vulnus che in questo decreto sono assolutamente evidenti, di contraddizioni che sono evidenti. Quindi vorremmo costruire un dibattito presentando degli emendamenti che sono stati elaborati in rete con Grey 250, che, al quale hanno contribuito anche in parte in questi anni, ma soprattutto nello specifico invitando anche la campagna Ero Straniero, e con i quali ci confronteremo con Italia Viva attraverso Gennaro Migliore, con Riccardo Maggi, che è comunque un esponente importante, un punto di riferimento importante anche per il Forum, è sempre stato presente e molto attivo all'interno della dimensione politica, delle relazioni politiche del Forum, e attendiamo ovviamente la possibilità di ottenere la presenza di un esponente del PD. Inoltre abbiamo avuto la possibilità di costruire un'interlocuzione con invece un pezzo del governo, e abbiamo ottenuto la disponibilità di Provenzano, che è il ministro per il Sud, per capirci, esponente di 5 Stelle, e di Mauri, Marco Mauri del PD, che è attualmente viceministro dell'Interno, che sono resi disponibili a interloquire nella prima settimana di giugno, un momento che noi riteniamo ugualmente fondamentale, perché sarà passata una settimana da quando la regolarizzazione sarà partita, e sui quali potremmo intervenire, con i quali potremmo intervenire per aggiustare attraverso ad esempio dei decreti successivi, scusate, Provenzano del PD, non dei 5 Stelle, mi sono confusa, non è facile parlare in Zoom con le persone che non vedi negli occhi, è un po' complicato, non siamo ancora abituati a questo tipo di interlocuzioni. Quindi Ministro per il Sud e il Vice Ministro dell'Interno Marco Mauri, con i quali vorremmo in qualche modo determinare un'interlocuzione più direttamente tecnica per intervenire in corso d'opera su delle questioni che potremmo sicuramente aprire. Io porterei l'esperienza che è stata fatta negli anni passati con le missioni che sono state fatte ad esempio nel 2002 e nel 2012, che sono state in qualche modo un work in progress anche grazie alle pressioni sociali e politiche di attivisti, di associazioni, di giuristi che dal basso hanno determinato cambiamenti anche in corso d'opera di quando le missioni erano state già in qualche modo, tra virgolette, oggetto di normative votate in Parlamento e quindi in qualche modo fissate nell'agenda politica. È fondamentale poter intervenire, ma soprattutto è fondamentale avere la pressione e la forza per poterlo fare. Da questo punto di vista, l'idea di aprire questo ulteriore dibattito a inizio giugno, nella prima settimana di giugno, con questo pezzo del governo. Ed è importante che da tutti i territori dove il forum è presente, in modo attivo, un dialogo con altre associazioni, penso a Bologna, al Molise, a Como, penso alla Calabria, dove abbiamo anche dei contatti, nel Torinese ugualmente, dove ci sono appunto invece esperienze anche di bracciantato agricolo per quanto riguarda soprattutto la raccolta delle mele, è fondamentale che ci siano delle sentinelle che diano la possibilità di capire concretamente cosa accade sul terreno, cosa accade man mano questa dimensione procedurale va avanti e man mano le contraddizioni che escono fuori, perché sono i casi concreti, i casi pilota che noi dobbiamo sottoporre all'attenzione politica per fare in modo che questi interstizi della norma che si creano si allarghino sempre di più. Quindi la partita non finisce con l'approvazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, la partita non finisce con l'approvazione in legge, con la conversione in legge in Parlamento, ma finisce anche quando verranno presentati l'ultima emersione, l'ultima richiesta di emersione, penso per esempio, come diceva Mimma, a coloro che hanno lavorato in nero e che non possono dimostrare in alcun modo di aver potuto lavorare. Lì per esempio si potrebbe aprire un dibattito con i tecnici del Ministero affinché si prenda in considerazione la possibilità di autodenunciare un rapporto di lavoro in nero da parte di un migrante che magari ha lavorato nelle campagne e non è mai stato regolarizzato, e quindi questo come requisito che rende applicabile la procedura. Ecco, insomma, quindi da questo punto di vista è fondamentale che noi agiamo una pressione che si compone anche di un occhio vigile che sul territorio ci dice cosa non va e cosa si potrebbe aggiustare. Io vorrei un secondo, scusate, collegarmi subito con quello che dice Giovanna, che è molto importante, e anche con quello che ha scritto Mariangela, che ringrazio, che fa riferimento al, per esempio, alla questione dei tirocini, quindi per esempio specifica che all'interno di questa regolarizzazione, oltre a comprendere tutte le categorie professionali, dovrebbero essere compresi anche i tirocini professionalizzanti che spesso vengono svolti dai richiedenti asilo. Mi ricollego a questo e a quello che diceva Giovanna, invitando tutte e tutti voi a inviarci del materiale che vada a denunciare e a testimoniare quello di cui appunto, che appunto vediamo nei nostri territori. Giovanna un po' lo anticipava, di farci sentinelle di quello che succede, non soltanto per diciamo fare pressione su questo decreto, ma come appunto diceva Giovanna, per fare una pressione più ampia su quelle che sono le politiche in generale legate all'immigrazione. Quindi noi stiamo già facendo un'opera di pressione e di soprattutto di visibilizzazione proprio con la campagna Visto. Come avrete appunto visto nei nostri canali, si stanno moltiplicando le testimonianze dai vari territori, quindi testimonianze video, testimonianze scritte, fotografie che vanno un po' appunto a narrare quello che succede in questo paese. Vi invitiamo, visto che appunto siamo in tanti e siamo vigili sui nostri territori, a mandarci delle testimonianze che, per esempio, appunto riprendo dall'intervento scritto di Mariangela, potrebbe essere anche appunto, leggo che Mariangela è ex coordinatrice di un CAS e che viene contattata in questo periodo da molti ex ospiti che con un permesso di soggiorno umanitario in processo di conversione non riescono a trovare lavoro. Ecco, questo è uno dei casi di cui noi stiamo parlando moltissimo in questo periodo, perché è uno dei casi che colpisce tantissime persone a seguito dell'approvazione del decreto Salvini. Ecco, far vedere che per esempio un tipo di decreto come quello sicurezza ha di fatto colpito la vita quotidiana di migliaia di persone, deve emergere, quindi vi invitiamo a mandarci materiale di questo tipo. Posso rinforzare ulteriormente, credo che per la finalità diciamo di ottenere qualcosa in sede di conversione o anche dopo, il raccontare situazioni come quelle che diceva Mariangela o altri sono fondamentali per dare concretezza, diciamo, a storie, no? Che poi si traducono in proposte di modifica, no? Appunto, com'è possibile che ciò ha avuto il richiedente asilo che ha fatto 5 lavori diversi e adesso non può fare la regolarizzazione, no? Perché appunto non è mai quello giusto nel momento giusto, no? O che ciò il ragazzo che è stato condannato per, come dire, per uso di sostanze stupefacenti, ma sciocchezze sostanzialmente, per di più magari mal difeso, e che adesso, come dire, sembra che sia appunto trattato come se fosse un grande criminale. O la persona che appunto cerca di presentare la domanda di regolarizzazione, ma bisognerà inserire il numero del passaporto o il documento equivalente nella procedura, che sarà sicuramente online, ma il passaporto non è pronto, perché l'ambasciata non lo darà fra 6 mesi, perché il blocco ha riguardato, no? Nel frattempo cosa metto nella domanda? Almeno che il passaporto io ce l'abbia alla fine del procedimento e non all'inizio, no? Dello stesso. Il solo fatto che la regolarizzazione scada il 15 di luglio, no? Termine tremendamente breve, tenuto conto che in teoria si potrà spostarsi dal 3 giugno e forse neanche, no? E quindi com'è possibile che dopo un mese e mezzo già scada, no? Una procedura nella quale appunto magari solo per farla devo andare in ambasciata e devo spostarmi di regione eventualmente, no? Tante di queste cose possono essere, diciamo, oggetto di bellissime testimonianze importanti per sostenere questo percorso, insomma, di sì, di emersione. Quindi io aggiungo solo una cosa che no, mi permetto di dire, ecco, sapendo che non è, che certamente condivido quello che molti hanno sostenuto, detto sulla questione dei costi. Tutto sommato mi rendo conto della cosa, ma sarà molto difficile in sede, diciamo, di provvedimento riuscire ad avere una modifica. Non è uno di quei temi su cui calcherei molto, perché se guardi il contributo forfettario di 500 euro per l'istanza di emersione e di solo 130 per l'altro caso, è in realtà molto basso. In realtà molto basso. Sappiamo che lo pagheranno i migranti, no? Non c'è, lo sappiamo benissimo. Ma non è un però è impossibile toglierlo, perché è una sanzione già ridotta molto. Da questo punto di vista sono stati abbastanza ragionevoli. Non focalizzerei la campagna su, cioè alcuni degli interventi su cose di questo tipo, ma sul fatto di potervi accedere a questa procedura realmente, per l'appunto, perché qua parliamo di persone che rischiano, pur avendo tutte le possibilità di poterlo fare, di non accedere alla campagna. Segnalo solo una cosa che nessuno di voi ha segnalato, ma torno a dirla perché sarà uno dei temi giganteschi di questa storia. Cosa vuol dire, per chi conosce il testo, so che altrimenti non è un po' difficile, cosa vorrà dire per avere il permesso di soggiorno temporaneo, quindi il comma 2, diciamo, di questa emersione, il permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre. Il testo di legge parla al momento della dicitura dal 31 ottobre, ma se è scaduto il 30 di ottobre, per esempio. Quindi ci siamo facendo interrogati se è un errore, perché se fosse applicata letteralmente non rientra nessuno. Cioè tutti quelli di cui parliamo anche in questa discussione non si capisce dove sono. Quindi vuole è qua l'importanza di un dettaglio, no? Che poi sappiamo che non è un dettaglio, cioè che si intende scaduto prima del 31 ottobre. Quindi tutti quelli che hanno avuto un permesso e un lavoro, e magari appunto per di più in tanti settori. Quindi, cioè, sono queste le grandi questioni su cui bisogna concentrarsi. Volevo solo dire una cosa. Francesco, c'è Stefania Grassia che ha la camera accesa, volevi intervenire o è solo la camera accesa? Adesso hai il microfono spento. Perché... No, era soltanto per dare comunque un feedback a chi sta parlando, mi sembra meglio. Ok, no, nessun problema, fai benissimo, era solo per capire se volevi intervenire. Prego Francesco. No, dicevo solo che riguardo a quello che diceva Gianfranco adesso, la questione dei tempi così ristretti, infatti noi avevamo pensato, anche se fossimo riusciti a fare un flash mob, avrei venuta l'idea di portare in piazza, non so, delle bottiglie di passate di pomodori con la scadenza al giorno di luglio, per dire, insomma, la roba scade così presto che non si può neanche utilizzare. Ma il fatto che mi sembra che ci sia un problema anche di costituzionalità a questo punto. Sappiamo benissimo che è impossibile muoversi, che per avere i passaporti devono sudare sette camicie, pagare tangenti tante volte perché ci sono corruzioni a non finire anche nelle loro ambasciate, nei loro consolati, quindi figuriamoci, quindi sembrerebbe quasi fatto apposta perché non possano mettere insieme i documenti per procedere con la sanatoria, quindi secondo me c'è proprio un principio di anticostituzionalità quasi in questo termine così ristretto con quello che dovrebbero produrre. Pensate solo che in un'intervista che è passata molto sotto silenzio di qualche giorno fa, ma chi vuole può andare a trovarla, una dichiarazione, scusate, un'intervista che vale la pena di ritrovare fuori, del presidente dell'INPS, le sue stime sono di una forbice compresa fra i 100 e i 200 mila domande, che sono la più bassa previsione fatta fino adesso rispetto alle dichiarazioni politiche, no? Eccetera. Nella forbice, nella parte più bassa di questa forbice, che secondo me è la più realistica tra l'altro, cioè di 100.000, andremo a regolarizzare un quinto della stima delle persone irregolarmente presenti in Italia. Ma infatti gli altri li espelliamo tutti. Appunto, gli altri li espelliamo tutti, certo. Come da tempo in memoria stiamo espellendo 600.000 persone ogni campagna elettorale, anche la prossima li espelliamo. Sempre gli stessi, ci dobbiamo tenere il pacchetto è sempre lo stesso. Eh? Certo, se dopo se tu li elimini tutti, che poi non espelli più nessuno, come fai? Non prometti di espellere più nessuno, è un guaio. No, cioè, ovviamente qualcuno diceva lo spazio mediatico per riuscire a spiegare, no? È molto, sempre molto complicato, perché la rapidità dei black box con cui viaggiano queste informazioni è molto pesante. E bisogna sempre trovare degli spazi, no? Perché adesso c'è una parte di opinione pubblica, diciamo, progressista, convinta, felice. Molti miei amici mi dicono: hai visto, c'è la sanatoria finalmente, era quello che volevi tu da tanto tempo, rompi le palle con i tuoi film, i forum, le cose, adesso finalmente c'è questa sanatoria. E vagli a spiegare che... Era un sì, modo per dire basta con i film, comunque. Esatto, era un modo era per un dire. Altro messaggio, eh? Esatto. E vai a spiegare quello. Poi l'altro spazio enorme su cui poi si gioca gran parte del dibattito politico è che fare le sanatorie, fare le regolarizzazioni dà un messaggio pericoloso, perché pare che il paese sia aperto all'arrivo di illegali clandestini, che se dopo li saniamo arrivano tutti qua. E questo è l'altro spazio comunicativo su cui cerchiamo di agire come forum, che, diciamo, sinteticamente nelle maledette leggi della comunicazione, appunto, tentiamo di sintetizzare nell'idea che è inutile regolarizzare, ma bisogna aprire vie regolari, è inutile sanare, ma bisogna fare sane politiche migratorie. E questo è uno spazio chiaramente molto complesso su cui soltanto l'Unione fa la forza, insomma, non c'è alternativa. E i percorsi suggeriti sono tanti. Ci attiveremo immediatamente da venerdì, come ha detto Giovanna, e dalla prossima settimana cercheremo di tenere avvisati tutti coloro che hanno partecipato oggi e che continuano a seguire tutto il lavoro del forum. Ovviamente accogliamo con grandissima disponibilità e interesse proposte di azioni, da appunto flash mob di passate di pomodoro ad altre, e siamo ben pronti ad accompagnarli. C'è una domanda di Ermira da Bolzano: quali sono le probabilità che queste proposte vengano accolte, e soprattutto qual è più probabile che venga accolta, visto la difficoltà avuta nella partorilla e quanto confusione è venuta fuori? Cioè, insomma, le possibilità, c'è qualcuno che se la sente rispondere a questa domanda di Ermira? Poi andiamo in chiusura, perché molti stanno iniziando a salutare. Io dico giustamente difficilissimo saperlo, visti gli equilibri molto fragili, no? In questa maggioranza, sicuramente poca roba, questo sì. Sicuramente, per esempio, se dovessero aprire sui settori, sarebbe su qualche altro settore e non l'eliminazione dei settori. Quindi meglio concentrarsi sul fatto di mettere, per esempio, i settori più importanti come manifattura, costruzioni, ristorazione, che non, no, una battaglia per togliere i settori, che sarebbe la più giusta, per esempio. Probabilmente forse qualcosa sui richiedenti asilo, appunto, perché sennò non si raggiunge l'obiettivo di, appunto, eliminare i contenziosi. Forse qualcosa sulla presentazione della domanda e quindi sui passaporti, però ecco, teniamo presente che, ripeto, appunto, bisogna andare con, vabbè, si presenta sempre di più chiaramente, però bisogna andare sapendo che quell'impianto, ovviamente la data, la famosa data dal 31 ottobre, prima 31 ottobre, eccetera, però ecco, sapendo che non ci sarà un cambiamento dell'impianto, ecco, l'impianto rimarrà un impianto sbagliato, un impianto fatto male e al quale si può, diciamo, lenire, diciamo, le parti più indigesti. Bene, io sì, credo anch'io che ci sia la possibilità di focalizzare alcuni risultati immediatamente, sia importante, e sicuramente quello della data, sicuramente tutto il percorso legato, tutta la contraddizione legata ai richiedenti asilo che hanno fatto percorsi lavorativi che non rientrano in quelle categorie, ma che possono ampiamente essere e devono essere riconosciuti, la contraddizione appunto rispetto ai permessi umanitari, il passaporto, insomma ci sono delle cose che si possono tentare di ottenere in questo breve tempo e su cui ci concentreremo per ottenerle. Poi bisogna essere subito pronti, come abbiamo detto, a evidenziare le conseguenze distorgenti, in qualche modo distorte, e i limiti di questo provvedimento per suggerirne di nuovi. Insomma, il limite più grosso che evidentemente sarà non così difficile far notare è che è una regolarizzazione che regolarizza un quinto degli irregolari, cioè è una regolarizzazione che non regolarizza la situazione. E questo sarà abbastanza facile farlo capire da un punto di vista comunicativo, perché sinceramente se le maglie rimangono queste, adesso vediamo cosa succede sui richiedenti asilo e su altri aspetti importanti, però la previsione di un quinto, cioè di 100.000, 150.000 massimo, mi sembra ampiamente ottimista. Io sarei per farci andare a cena tutti, se non avete altro. Da Francesco di Bologna si ricorda anche il settore della logistica, sì, anche quello. E ringraziando i tanti partecipanti, una quarantina di partecipanti per una serata come questa in cui si iniziano a rompere le maglie del lockdown e a tornare a fare illegali aperitivi, è una bella partecipazione e vi ringraziamo, e soprattutto vi ringraziamo per gli stimoli che avete portato e vi terremo assolutamente aggiornati a brevissimo giro, perché le nostre azioni e le vostre azioni sono quotidiane in un momento molto importante come questo. Grazie. Potrebbe a tutti, ricordiamo, Serena l'ha ricordato, tutto ciò è rimasto come? Un'accensione di telecamere generali per salutarci. Così. Esatto. Ah, ok, sì, perfetto. Ciao a tutti. Buona serata, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, e se per caso qualcuno non è iscritto alla nostra newsletter, può andare sul sito per cambiare l'ordine delle cose.eu e iscriversi. Nella home page in basso a sinistra troverà il modulo per farlo, così da continuare a essere aggiornati sulle nostre iniziative. Sì, aggiungo se posso un'ultima cosa, sempre operativa. Che ovviamente chi si è reso disponibile a contribuire alla campagna e a costruire insieme a noi un percorso attivo in particolare su questo tema, ma in generale per proseguire i ragionamenti, verrà contattato da me personalmente. Penso a Bologna, che è intervenuta, al Molise, a Como, e proveremo insieme a capire come dare voce a quei territori attraverso lo spazio del forum, che è di fatto uno spazio che viene messo a disposizione di tutti noi e di questa sono visibili. E con questa minaccia finale, vi avete contattati personalmente da